la forza del respiro, chiama l'aria pura del mattino che mi accarezza in faccia. Il fuoco nelle gambe chiedi aiuto al cuore che ormai è stanco di pompare. Il sangue nelle vene quando corro, chiedo chi me l'ha fatto fare, ma intanto corro e prendo ancora energia dalla mia mente. Quando i muscoli a pezzi non vogliono andare avanti, anche la pelle brucia quando corro. La pelle brucia quando...